di nuovo in diretta con Taranto. Pronto, Salvatore? Sì, allora, l'ascolto. Bene, l'ascolto. Ti sentiamo bene? Abbiamo adesso avuto proprio pochi minuti fa una corrispondenza con un operaio, con Gianluca, insomma, che sicuramente conosci. Ci ha detto ecco, ci ha dato quel minimo di informazione sulla situazione attuale. Qualche valutazione in più, secondo te? Io non so cosa vi abbia detto Gianluca, provo un attimo a sintetizzare nel più breve tempo possibile gli accadimenti da ieri pomeriggio fino a quest'ora, insomma. Sì. Come posso dire, con ovviamente le relative valutazioni. Mi scuso, prima ero in diretta con la radio onda tutto e quindi per questo non ho manco sentito il cellulare. Allora vi dico che partiamo al contrario, partiamo da questo momento. Da questo momento siamo all'interno della fabbrica, anche io, come dire, dove c'è un'assemblea di migliaia di persone, sostanzialmente si può dire seguendo quelle che sono state le indicazioni del comitato cittadini, lavoratori liberi e pensanti, che da ieri, quando si è avuto la notizia che l'azienda avrebbe messo in libertà, ecco, poi su questo termine ne riparleremo fra un attimo, tutti i lavoratori dell'area a caldo, parliamo di circa di oltre 5.000 lavoratori su 11.000 rotti, quindi quasi la metà, ovviamente ci si è attivati per, come dire, rispondere a quella che era palesemente, insomma, un termine forse degli anni 70, ma che credo sia molto valido anche oggi, degli anni 70, anzi, della storia del movimento operaio, cioè questa è una serrata padronale. Sì, è così, è così. E va chiamata con cioè questo è l'unico nome che credo si possa dare a quello che ha fatto l'azienda. La risposta del comitato è stato autoconvocarsi, invitando i lavoratori ad autoconvocarsi in assemblea generale vicino alle portinerie, spingendo ovviamente verso una risposta immediata all'azienda. Questo ha avuto immediatamente, diciamo, una risposta positiva dei lavoratori, tant'è che in modo abbastanza paraculo, non a caso subito dopo, un paio di ore dopo, verso le 7:30, le 8 di ieri sera, CGL, CISL, UIL, Fiume UIL nella RSU hanno convocato lo sciopero ad oltranza, ma dopo che noi già eravamo davanti alle portinerie, ecco, quindi a parlare con i lavoratori, a discutere con i lavoratori, a fare assemblee con i lavoratori per decidere il percorso da tenere. E teniamo presente che ieri è uscita la proposta di tenere fermi i presidi a tutte le portinerie. Infatti oggi praticamente non sta lavorando nessuno, neanche l'aria a caldo, che invece Riva voleva tenere in piedi per sfruttare proprio gli ultimi materiali da bruciare, come dire, no? Per fare acciaio. E quindi evitare che anche chi arrivasse di primo turno potesse entrare sostanzialmente, certo. Quindi fermarsi lì e discutere cosa fare stamattina. Il presidio è stato la nottata, scusate se io ho la voce non proprio chiarissima, ma se no 2 ore di sonno, certo. Ed è andato molto bene, perché poi c'è stato un corteo interno, praticamente i lavoratori hanno aperto le porte dell'ILVA anche ai cittadini, insomma, che siamo qui ovviamente, come esattamente abbiamo fatto già ieri sera, a sostenere ovviamente la lotta dei lavoratori. E poco fa avevamo saputo che stamani in direzione ci sarebbe stato con Buffa, che è uno degli indagati sulle ultime vicende, avrebbe incontrato CGL, CISL e UIL. A quel punto, ecco, il sogno di tutti noi, Giorgio, credo di tutte le compagne e i compagni in ascolto, la vera auto-organizzazione. I lavoratori si sono autodelegati, si sono presentati ovviamente con particolare riferimento, anzi direi con solo riferimento, dei lavoratori ILVA che stanno nel comitato, ci si è autorappresentati dal basso e sono state fatte 2 richieste molto semplici: il ritiro immediato della cosiddetta messa in libertà, no? Certo. Dei lavoratori dell'area a caldo e il piano entro il 31 dicembre della, per mettere a norma gli impianti. Questo è molto secco, senza discussioni. Ci aspetta entro le 14, se entro le 14 l'azienda attraverso Buffa non risponderà, noi in assemblea generale, che è stato detto e ripetuto, e decideremo un attimo che cosa fare. E mi pare che siamo sulla buona strada da questo punto di vista, proprio dell'auto-organizzazione dal basso, perché è tutto, come dire, fatto in diretta. L'APESA si è trasformato in un pulmino, diciamo, preso in prestito dall'ILVA, è un po' più grande, ma di lì si sta parlando, con lo stesso meccanismo che avete visto tante volte in TV, insomma, certo, con cui il comitato è andato avanti in questi quattro mesi. Le valutazioni sono ovvie, voglio dire, tieni presente, questo voglio dire bene che è un po' esatto in tutti, che questi arresti che ci sono stati sono esclusivamente una punta dell'iceberg. Questo l'aveva detto già in conferenza stampa Sebastio, che è il procuratore generale, insomma, di Taranto, della Tribunale di Taranto, ma ti aggiungo che se andate sull'online il Fatto Quotidiano fa una serie di nomi implicati. Si parla anche di un dirigente di Ligos, abbiamo chiamato, che parte da Vendola attraverso il presidente della provincia, anzi su Vendola poco fa mi dicevano che è ufficiale l'avviso di garanzia, però su questo non vi posso dare certezze. Quello che è certo è quello che è uscito su Il Fatto Quotidiano online ieri sera, verso, non ricordo, in tarda serata, diciamo in prima nottata, e il presidente della provincia, il sindaco Bersani, che ha avuto 98.000 euro da Riva, uno della Digos che prima parlava col procuratore Sebastio e poi andava a riferire qui a Riva, ovviamente sindacalisti, giornalisti Rai, ce n'è di tutto e di più, cioè un vero e proprio sistema di potere, insomma, quando noi parliamo con un'accezione classica, insomma, poteri forti, ecco, questi sono, che hanno questa capacità di tenere tutti dentro attraverso l'elemento della corruttela, ma non solo, insomma, già proprio come sistema di potere, ecco, direi. Senti, che va oltre la corruttela. Certo. Ecco, un sistema per schiacciare una città, per schiacciare gli interessi dei proletari, insomma, dei lavoratori, tutto quello che potete pensare. Immagina, certo. Senti una cosa, Salvatore. Allora, sì, intanto, siccome tu non avrai avuto modo di leggere i giornali stamattina. Assolutamente no, ecco, perché quindi, sono, esatto, sono dalle 5 stamattina, sì, qua sono andato. Hai fatto la notte brava, ti sei dato la notte brava, sì, sì. Ci manca sì, la esatto, nostra venerante età. Esatto. Come dire. Senti, allora, tanto smentiamo, insomma, da quello che dici. Si smentisce la notizia che danno i giornali, che questo l'ha voluto i sindacati, in particolare la FIOM, che ha dato questa indicazione. L'indicazione viene dal basso. Assolutamente falso. Io, ecco, spero che, perché ci sono le TV che stiano facendo vedere le immagini dell'assemblea che si tiene all'interno dell'ILVA, sotto la direzione, all'interno dell'ILVA, e chi è quel carroncino, il carroncino del comitato, dicessero quello che gli pare. Poi chiaramente in un sistema dove ci sono sindacalisti e giornalisti la cosa non ci può meravigliare, certamente, chi falsifica la realtà, come dire, però spero che qualcuno stia anche facendo immagine poi da mettere in rete, insomma, ecco, ma vi garantisco che è molto emozionante proprio questa reazione operaia, finalmente, insomma, dopo anni, come dire. E l'altra cosa che volevo dirti è che, da quello che ci dici, insomma, quindi che verrà fuori nei prossimi giorni, un po' già sta avvenendo fuori, è saltato il tappo, potremmo dire, il tappo complessivo che istituzioni varie e collaboratori di ogni tipo cercavano di mettere su questo movimento, perché a questo punto possiamo veramente definirlo così, tra esigenze di salute della popolazione, della cittadinanza, e necessità, interessi operai di difesa del reddito, del posto di lavoro, eccetera, insomma, ecco, questa saldatura si va realizzando. Non avrei potuto definirla meglio, insomma. Senti, sento applausi, so che dimmi, ci dimmi. Sono applausi, o forse si è affacciato Buffa per macchiarlo, certo, fischi per macchia, ma questo, certo, ci interessa poco, no, ma dico che hai dato la quadratura, che sono le parole d'ordine, perché poi voglio dire questo comitato ha espresso insomma la sua linea in quattro parole d'ordine, che erano appunto reddito, lavoro, salute e ambiente, certo. Tutti ovviamente sullo stesso piano, e un sia diritti e no ricatti, certo. Che è come dire il compendio, no? Sì. Di queste quattro parole d'ordine, che non sono parole d'ordine vuote, ma sono una concretezza. Adesso mi dilungherei insomma su alcune idee che noi ovviamente abbiamo per ricostruire proprio un tessuto economico di questo territorio, ma sarebbe un pochettino lungo. No, cioè, invece voglio chiederti una cosa, Salvatore. Qui forse l'assente è il governo. Il governo non è assente. Allora facci capire perché. Nel senso che è presente attraverso Clini, mi spiego, nel senso che Clini sostanzialmente è al servizio di Riva esattamente come tanti altri, e quindi, come ti dicevo prima, gli voleva dare quella via di fuga che avrebbe consentito. Ma è finita sta via di fuga, mi sembra, con questa situazione odierna. Sì, questa è una gran boiata, insomma, questa nuova aia o una progettualizzazione di questa nuova aria, voglio dire. Quindi ti dicevo, forse mi stanno chiamando da un'altra radio. Un attimo solo, chiedo scusa un attimo ai compagni. Sì. Un attimo solo. Compagni, per favore, sono in diretta con la radio Onda Rossa. Mi richiamate fra un po'? Grazie. Ciao. Allora, vi dicevo, quello è. Forse l'unico che, come dire, non ha potuto negare alcuna evidenza è stato il ministro Balduzzi, perché su uno studio di Sentieri, che peraltro noi del Ministero della Sanità reputiamo, come dire, abbastanza riduttivo sulle devastazioni, l'ha detto lui, che qui i tumori aumentano fino per punte massime, per esempio sul mesotelioma pleurico, del 416%, ribadisco, 416%, chiaro? Quindi voglio dire, solo Balduzzi forse non ha potuto negare un'evidenza, uno studio che era pubblico, ma ripetiamo, noi che viviamo sulla pelle questo territorio, le nostre famiglie, i nostri morti, perché qui ce l'abbiamo tutti indistintamente, e non solo su Taranto ma nella sua provincia, ma pensate che l'inquinamento arriva fino nel Leccese, fino a Lecce, per una questione di venti che è ovvio, certo. Capisci? Allora di questo stiamo parlando. Ecco, ma a questo punto in questo senso lo dobbiamo dire qui. Cioè il paladino ovvio, voglio dire, questo governo è il governo del banchiere, il governo dei Riva, altrimenti voglio dire, qui per cui la sua assenza è studiata, come si può dire. Ora pare che Monti abbia convocato i sindacati per giovedì a Roma. Sì, è che la notizia sia questa. Certamente faremo dei percorsi autonomi rispetto a questa cosa. Ma è evidente che nel momento in cui noi chiediamo lavoro, reddito, oltre che ambiente e salute, diciamo al governo delle cose precise, che chi ha la responsabilità sulla situazione attuale di Taranto, visto da un punto di vista ambientale e lavorativo, è il governo per la fase in cui si chiamava Vital Sider, ed è Riva dal 1995, ed entrambi devono pagare in termini proprio di risorse. Senti una cosa, un'ultima cosa, Salvatore, che poi ti lascio perché insomma c'hai da fare, capisco, insomma, in varie direzioni. A questo punto, secondo te, una valutazione, insomma, proprio perché la dirigenza ormai è squalificata, insomma, di fronte a tutto. Lo stesso ministro dell'Ambiente che ha tentato quello che tu dicevi, però di fronte a queste ultime cose, cosa resta, cosa può fare il potere politico? Può e ci sta magari questa cosa in mezzo ai lavoratori, ai cittadini, che lo Stato requisisca letteralmente l'impianto, garantisca l'occupazione e poi provveda? Allora, ascoltami, su questo noi volutamente, questa è una delle ipotesi che abbiamo messo nel ventaglio delle varie ipotesi. E, come dire, travalicando ovviamente tutti gli aspetti tecnici, cioè come fare, poi lo ci si inventa, evidente, che già non esistono, come in realtà esistono poi, diciamo, nelle norme attuali, questo tipo di possibilità è una delle possibilità, è una delle possibilità. Io credo che loro tenderanno piuttosto a far stancare i lavoratori. Questa è un po' la mia idea, che però è un'idea assolutamente personale. Vabbè, siamo sui rapporti chiaro. Di forza nudi e crudi. Tenderanno a dividerli, ovviamente, cosa che fino ad oggi, diciamo, in qualche modo gli è riuscito. La giornata di oggi cambia qualche cosa, però il tentativo sarà questo. Sarà quello. Tentativo sarà questo, attraverso le proprie classiche forme del ricatto o delle infamie nei confronti dei singoli componenti del comitato, ma credimi, voglio dire... quello che sta avvenendo in questo preciso momento mi dà la sensazione che, nonostante sia da solo 4 mesi, nonostante appunto tutti gli attacchi subiti, anche un po' di denunce ci siamo beccati in questo periodo, credo che questo comitato stia crescendo sia nella credibilità a livello territoriale e oggi palesemente anche in fabbrica, più che mai in fabbrica, e diciamo la strada è quella giusta. Loro tenteranno ovviamente di spezzarsi le gambe a qualunque livello, e ripeto, io credo che tenderanno un pochettino a portarla alla lunga, ma la reazione potrebbe essere quella più giusta e corretta, insomma, che non ci stiamo a questo gioco. Vedremo dove andiamo a finire. E su questo, insomma, penso che noi qui, per quello che possiamo, ce la metteremo tutta per informare, ma insomma la solidarietà a questa lotta credo che vada estesa. Ringrazio da parte di tutti i lavoratori, a tutti quanti, perché insomma diventa veramente una lotta simbolo. Non so se l'ho sentito, io sono abbastanza lontano peraltro, proprio per darvi va bene Salvatore, bene la mia voce. Ti lascio e ti ringrazio, grazie, ovviamente, grazie, insomma buona lotta a tutti e bisogno, la solidarietà se possibile a tutti i lavoratori che adesso sono presenti lì a presidiare i cancelli da parte di Radio Onda Rossa e degli suoi ascoltatori e ascoltatrici. Io colgo l'occasione per salutare tutte le compagne e compagni all'ascolto e non solo quelle che mi conoscono. D'accordo. Un abbraccio col cuore. Va ecco, bene. Grosso applauso da benissimo. Un lavoratore di Italia, se noi ci rappresentiamo da soli. Perfetto. L'organizzazione. Mi sembra la strada giusta. Tutti. D'accordo. Ciao Salvatore. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sing of the joy and